massima filosofica che non puoi mai fallir, che non puoi mai fallir. Un uomo fermi grazia, capil tardello in tasca, chi fa da palo in frasca, un pazzo si più dir, un pazzo si più dir, un pazzo si più dir. Signori letterati, io mi rimetto a voi, il pazzo fra di noi, il pazzo fra di noi, diteci, diteci voi qual è. Signori letterati, io mi rimetto a voi, il pazzo fra di noi, il pazzo fra di noi, diteci, diteci voi qual è. Senti che mormorio, senti che cosa dico noi. Tu, la mia sposa, per io, sciampazzi in tutte e tre, sciampazzi in tutte e tre, sciampazzi in tutte e tre. Sì che son pazzo, è vero, per te, per lui, per lei, et impazzir potrei, per lui, per lei, per te, et impazzir potrei, per lui, per lei, per te. Senti che mormorio, sì, sì, son pazzo, è vero. Senti che cosa dico no, per te, per lui, per lei, tu, la mia sposa, impazzir potrei, io, per lui, per lei, per tre. Sì, sì, son pazzo, è tu, per te, per lui, la mia sposa, et impazzir potrei, io, per lui, per lei, per te, per te, per te, per te, per tre. Per lui, per lei, per te, per lui, per lei, per te.